Il libro di Enoch. Libro 3. Luminari. Enoch 72. Libro del giro delle luci del cielo, ognuna come sta, nella propria classe, nella propria potenza, nel proprio tempo, nel proprio nome, nella propria nascita, nel proprio mese che mi mostrò Uriele, l'angelo santo che stava con me, che è il loro condottiero. Io scrivo tutto il loro libro, così come egli mi mostrò secondo tutti gli anni del mondo, fino all'eternità e finché sarà fatta un'opera nuova, che starà in eterno. E questa è la prima legge delle luci. L'uscita della luce sole è nelle porte del cielo che sono verso oriente e il suo tramonto nelle porte del cielo di occidente. E vidi sei porte da cui usciva il sole e sei ove esso tramontava e la luna, attraverso di esse, sorgeva e tramontava. E guida alle stelle e a quelli che le guidano, sono sei porte ad oriente e sei ad occidente del sole e tutte una dietro l'altra, ritte, e molte finestre a destra e a sinistra di questa porta. E per prima usciva la luce maggiore, chiamata sole, e la sua orbita è come la circonferenza del cielo e tutto era pieno di fuoco splendente ed ardente. Il vento soffiava sui carri sui quali esso saliva. E il sole tramontava dal cielo e tornava per il nord per andare ad oriente, ed era guidato per entrare in questa porta e illuminava la faccia del cielo. Così sorgeva nel primo mese per la porta grande ed usciva per la quarta di quelle sei porte che erano verso oriente del sole. Ed in questa quarta porta da cui usciva il sole nel primo mese vi erano 12 finestre aperte e da cui usciva la fiamma quando esse, al loro tempo, si aprivano. Quando il sole sorgeva dal cielo, usciva per quella quarta porta per 30 mattine e scendeva direttamente attraverso la quarta porta che è ad occidente del cielo. E in quei giorni, il giorno si allungava e la notte si accorciava, per 30 giorni. E in quei giorni, il giorno era lungo due parti più della notte ed era, il giorno, esattamente 10 parti e la notte era 8 parti. Ed il sole usciva da questa quarta porta e tramontava per la quarta e ritornava nella quinta che è ad oriente per 30 mattine ed usciva da essa e tramontava nella quinta porta. Allora il giorno si allungava di due parti ed il giorno era 11 parti e la notte si accorciava ed era 7 parti. Ed il sole ritornava ad oriente ed entrava nella sesta porta ed usciva e tramontava nella sesta porta per 31 mattine, secondo il segno di lei. Ed in quel giorno, il giorno era più lungo della notte ed il giorno era parti e la notte era corta ed era 6 parti. Ed il sole era tolto affinché il giorno si accorciasse e la notte si allungasse ed il sole tornava ad oriente ed entrava nella sesta porta e sorgeva da essa e tramontava per 30 mattine. E quando si esaurivano 30 mattine, il giorno diminuiva di una parte, esattamente, ed il giorno diventava 11 parti e la notte 7. E il sole usciva da occidente, da quella sesta porta ed andava ad oriente e sorgeva dalla quinta porta per 30 mattine e tramontava ad occidente, di nuovo, nella quinta porta ad occidente. In quel giorno, il giorno diminuiva due parti ed il sole era 10 parti e, la notte, 8. Ed usciva, il sole, da quella quinta porta e tramontava nella quinta porta, ad occidente, e sorgeva nella quarta porta, secondo il di lei segno, per 31 mattine, e tramontava ad occidente. In quel giorno, il giorno si eguagliava con la notte, diventava uguale, e la notte era 9 parti ed il giorno 9 parti. E il sole usciva da quella porta e tramontava ad occidente e ritornava in oriente ed usciva dalla terza porta per 30 mattine e tramontava ad occidente, nella terza porta. E in quel giorno la notte era più lunga del giorno per 30 mattine ed il giorno si accorciava, di giorno in giorno, per 30 giorni, e la notte era 10 parti esatte ed il giorno era 8 parti. E il sole usciva da quella terza porta e tramontava nella terza porta, ad occidente, e ritornava ad oriente ed il sole usciva nella seconda porta di oriente per 30 mattine, e ugualmente, tramontava nella seconda porta, ad occidente del cielo. E in quel giorno, la notte era 11 parti ed, il giorno, 7. Ed il sole usciva, in quel giorno, da quella seconda porta e tramontava ad occidente, nella seconda porta, e ritornava a oriente, nella prima porta, per 31 mattine e tramontava, ad occidente, nella prima porta. Ed in quel giorno la notte si allungava e diventava il doppio del giorno e la notte era esattamente 12 parti ed, il giorno, 6. E il sole compì le sue stazioni e girava un'altra volta su quelle stazioni ed entrava in quella porta per 30 mattine e tramontava ad occidente, alla parte a lui opposta. E in quel giorno la notte si accorciava dalla propria lunghezza di una mano, cioè di una parte ed era 11 parti ed il giorno era 7 parti. Ed il sole ritornò ed entrò nella seconda porta, ad oriente, e ritornava su questa sua stazione. Per 30 mattine sorgeva e tramontava. E in quel giorno la notte si accorciava dalla sua lunghezza e diventava, la notte, 10 parti ed, il giorno, 8. E in quel giorno il sole usciva da quella seconda porta e tramontava ad occidente e ritornava ad oriente e sorgeva nella terza porta per 31 mattine e tramontava ad occidente del cielo. Ed in quel giorno la notte diminuiva e diventava 9 parti ed il giorno diventava 9 parti e, notte e giorno, erano uguali e l'anno era, esattamente, 364 giorni. E la lunghezza e la brevità del giorno e della notte si distinguevano secondo il corso del sole. Per causa sua, il suo corso si allunga di giorno in giorno e di notte in notte si accorcia. E questa è la legge e il corso del sole ed il suo ritorno quando rientra. Per 60 giorni entra ed esce. Questa è la grande luce eterna, chiamata sole nell'eternità. Questa è la gran luce che esce e che si chiama sole, dato il suo aspetto, come il Signore comandò. E così, esso esce ed entra e non diminuisce né, si riposa, ma corre notte e giorno, sul carro, e la sua luce illumina 7 volte più della luna ma le misure di ambedue sono uguali. Enoch Slavo 12. Spiriti volanti. 12 ali a ciascun angelo che tira il carro del sole, portando la rugiada e il calore quando il Signore comanda di scendere sulla terra con i raggi del sole. Enoch Slavo 13. Gli uomini mi portarono verso l'oriente del cielo e mi mostrarono le porte attraverso le quali il sole sorge secondo i tempi fissati e secondo i circuiti della luna di tutto l'anno e secondo la diminuzione e l'allungamento dei giorni e delle notti. Sei porte grandi, una delle quali è aperta a una distanza di 30 stadii. Misurai con cura la loro grandezza e non potei comprendere la loro grandezza. Attraverso le porte per le quali sorge, il sole va verso occidente. Attraverso la prima porta esce per 42 giorni, per la seconda per 35 giorni, per la terza per 35 giorni, per la quarta per 35 giorni, per la quinta per 35 giorni. Per la sesta per 42 giorni. E di nuovo, ritornando per la sesta porta secondo il giro del tempo, sorge per la quinta porta per 35 giorni, per la quarta porta per 35 giorni, per la terza porta per 35 giorni, per la seconda per 35 giorni e i giorni dell'anno terminano secondo il ritorno delle stagioni. Enoch Slavo 14. Gli uomini mi sollevarono all'occidente del cielo e la mi mostrarono sei porte grandi, aperte, in corrispondenza del cerchio di quelle orientali opposte, per le quali tramonta il sole in corrispondenza del suo sorgere per le porte orientali e secondo il numero dei giorni. Così tramonta attraverso le porte occidentali e quando esce dalle porte occidentali quattro angeli prendono la sua corona e la portano al Signore e il sole volge il suo carro e va senza luce. E di nuovo la gli mettono la corona. Enoch Slavo 15. Questo è il calcolo che mi mostrarono del sole e delle porte per le quali entra ed esce. Il Signore, infatti, che ha fatto queste porte, fa del sole l'orologio dell'anno. Parte 14. Enoch 73. E dopo questa legge, vidi l'altra legge, per la luce minore chiamata luna. La sua orbita era come quella del cielo e, su, il suo carro, sul quale saliva, soffiava il vento e, con misura, le veniva data la luce. E in tutto il mese, il suo luogo di uscita ed rientro mutava ed i suoi giorni erano come quelli del sole e, quando si misurava l'essenza della sua luce era la settima parte della luce del sole e sorgeva così. Il suo capo, che è a oriente, sorge il 30 mattina e, in questo giorno, essa appare ed è per voi l'inizio della luna il giorno 30, insieme col sole, nella porta da cui esce il sole. E la sua metà è divisa in sette parti di uno e tutto il suo disco è vano, senza luce, se si eccettua la sua settima parte sulle 14 parti della luce. E ogni giorno prende un settimo e la metà della sua luce è la luce di sette settimi e la sua metà tramonta col sole. E quando sorge il sole, con esso sorge anche la luna e prende la altra metà della porzione di luce di in quella notte, al principio del proprio mattino, al principio del giorno lunare. La luna tramonta col sole e si oscura, in quella notte, di sette settimi e, cioè, della sua metà. E sorge, in quel giorno, la settima parte esatta ed esce e si inclina da oriente del sole ed illumina, nei rimanenti giorni, sette settimi. Enoch 74. e vidi un altro corso ed un'altra legge per la quale essa faceva il suo corso mensile. Uriele, l'angelo santo che era la guida di tutti loro, mi mostrò tutto, ed io scrissi la loro sede come me la aveva mostrata e scrissi i loro mesi, così come erano, e l'aspetto della loro luce fin quando si compirono 15 giorni. Essa completava, in 14esimi, tutta la sua luce ad oriente e, a 14esimi, esauriva tutta la sua oscurità ad occidente. In alcuni mesi modificava il tramonto e, in alcuni mesi, il suo corso procedeva distinto. E in due mesi, tramontava col sole, in quelle due porte che sono al centro. Nella terza e nella quarta. Usciva per 7 giorni, girava e ritornava di nuovo nella porta da cui usciva il sole. Ed in quella completava tutta la sua luce, si allontanava dal sole e rientrava per 8 giorni nella sesta porta da cui usciva il sole. E quando il sole usciva dalla quarta porta, usciva per 7 giorni fin quando usciva dalla quinta e, di nuovo, ritornava per 7 giorni nella quarta porta e completava tutta la sua luce e si allontanava ed entrava nella prima porta per 8 giorni. E di nuovo, ritornava per 7 giorni nella quarta porta da cui usciva il sole. Così io vidi la loro sede. Secondo la regola dei loro mesi, il sole sorgeva e tramontava. E in quei giorni, aumentava in 5 anni e, sopra, giungevano al sole 30 giorni e tutti i giorni gli giungevano in uno di quei 5 anni e, in tutto, erano 364 giorni. E, se si aggiunge la aggiunta del sole e delle stelle di 6 giorni per 5 anni, si aggiungono, ad essi, 30 giorni e la luna è inferiore, rispetto al sole e alle stelle, di 30 giorni. E la luna porta gli anni con esattezza, tutti secondo la loro posizione, per l'eternità ed essi non ritardano né anticipano neanche di un giorno, ma cambiano l'anno, giustamente ed esattamente, ogni 364 giorni. In 3 anni i giorni sono 1092, in 5 anni, 1820 e, in 8 anni, sono 2912. Alla luna soltanto i giorni ammontano, per 3 anni, a 1062 e, per 5 anni, diminuiscono di 50 giorni poiché, all'esito del calcolo, si deve aggiungere su 1062 giorni. E i giorni, per 5 anni, sono 1770 sì che, per 8 anni, i giorni sono 2832 poiché la diminuzione, in 8 anni, e di 80 giorni e tutti i giorni che si sottraggono da 8 anni sono 80. E l'anno si compie in giustizia, secondo la posizione del sole e la posizione di essi che sorgono dalle porte dalle quali, per 30 giorni, sorge e tramonta il sole. Della luna mi mostrarono un altro calcolo. Gli uomini mi mostrarono tutti i suoi movimenti e tutte le sue orbite e mi indicarono le sue porte. Mi mostrarono 12 porte verso oriente in circolo e 12 porte simili verso occidente in circolo per le quali la luna sorge ed esce secondo i tempi abituali. Attraverso la prima porta verso oriente per 31 giorni sicuramente. E per la seconda per 31 giorni sicuramente e per la terza per 30 giorni eccezionalmente, E per la quarta per 30 giorni sicuramente. E per la quinta per 31 giorni straordinariamente. E per la sesta per 31 giorni sicuramente. Per la settima 30 giorni sicuramente. Per l'ottava per 31 giorni straordinariamente. E per la nona per 31 giorni esattamente. E per la decima per 30 giorni sicuramente. Per l'undicesima per 31 giorni eccezionalmente. Per la dodicesima porta, sorge, per 22 o 28 giorni sicuramente. E così anche per le porte occidentali secondo il circuito e secondo il numero delle porte orientali. Così entra anche per le porte occidentali e compie l'anno in 364 giorni. Va nell'anno con 4 giorni eccezionali. Per questo sono tolti fuori dal cielo e dall'anno e non vengono contati nel numero dei giorni perché eccedono i tempi dell'anno. Due nuove lune nella direzione della luna piena e due altre nuove lune nella direzione della sua diminuzione. Quando ha terminato le porte d'occidente e ritorna, va in quelle d'oriente con la sua luce. Così va giorno e notte in cerchio, la sua orbita è simile al cielo e il carro sul quale sale è un vento che va e trascinano il suo carro spiriti volanti. Ciascun angelo ha 6 ali. Questo è il calcolo della luna. Enoch e Slavo 16. Paragrafo incompleto tradotto dallo spagnolo. E così attraversano le porte dell'Occidente nello stesso ordine e numero delle porte dell'Est, e in questo modo realizzano i 364 giorni e un quarto dell'anno solare, mentre l'anno lunare ne ha 354 e mancano 12 giorni del cielo solare, che sono gli aspetti della Luna durante tutto l'anno. In questo modo, il grande cielo contiene anche 532 anni. Il quarto anno di un giorno viene omesso per 3 anni e il quarto anno esattamente. Quindi vengono portati fuori dal paradiso per 3 anni e non vengono aggiunti al numero di giorni, perché cambiano la bussola degli anni a 2 nuovi mesi in più verso la fine di 2 mesi in più verso il restringimento. E quando le porte dell'ovest sono chiuse, lui ritorna e va ad est verso le luci, in questo modo il continuo giorno e notte intorno ai cerchi del cielo, che sono più bassi degli altri cerchi, e corre più veloce di venti del cielo, e ancor più degli spiriti, degli elementi e degli angeli che volano. Ogni angelo ha 6 ali. Ha un corso sestuplo in 19 anni. In mezzo al cielo vidi una milizia armata che serviva Dio con timpani e con strumenti con una voce incessante e mi dilettai ascoltando. Enoch 75. Le guide dei capi di mille che sovrintendono su tutto il creato e su tutte le stelle, comprese le quattro che si aggiungono e che non si separano dalla loro sede, secondo tutto il calcolo dell'anno e di queste ultime, servono i quattro giorni che non sono calcolati nel calcolo dell'anno. Ma, in riferimento a loro, gli uomini sbagliano poiché quelle luci servono con esattezza nella posizione del mondo. Una nella prima porta, una nella terza, una nella quarta e una nella sesta e si compie, ogni 364 posizioni del mondo, la perfetta armonia del mondo. Gli uomini sbagliano, poiché i segni, le epoche, gli anni e i giorni me li mostrò Uriele, L'angelo che il Signore di gloria eterna aveva preposto su tutte le luci del cielo, in cielo e nel mondo, affinché il sole, la luna, le stelle e tutte le creature serve che vanno in giro su tutti i loro carri celesti dominassero sulla faccia del cielo e si vedessero sulla terra e fossero guide al giorno e alla notte. In tal modo Uriele mi fece vedere 12 porte aperte nell'orbita dei carri del sole, nel cielo, dai quali uscivano i raggi del sole e dai quali sortiva il calore sulla terra, quando si aprivano nelle epoche loro fissate, quando si aprivano per i venti e per lo spirito della rugiada, nelle epoche, erano aperte, nei cieli, ai bordi. Vidi nel cielo, ai confini della terra, 12 porte da cui uscivano il sole, la luna, le stelle e tutte le creature celesti, da oriente e da occidente. E molte finestre aperte a sinistra e a destra, ed una finestra, al tempo proprio, produceva il calore, similmente a quelle porte dalle quali uscivano le stelle così come egli aveva loro ordinato e nelle quali tramontavano secondo il loro numero. E vidi i carri, nel cielo, mentre correvano nel mondo sopra e sotto quelle porte alle quali ritornavano le stelle che non tramontavano. Ed uno era più grande di tutti e andava in giro a tutto il mondo. Parte quindicesimo. Enoch 76. Silence millisecondi uguale 1000 barra maggiore di. E ai confini della terra, vidi 12 porte aperte a tutti i venti, dalle quali i venti uscivano e soffiavano sulla terra. 3 di esse aperte in faccia al cielo, 3 ad occidente, 3 a destra del cielo e 3 a sinistra. 3. Le prime, quelle verso oriente e 3 verso settentrione e 3 dietro, quelle a destra, verso sud, e 3 ad occidente. Da 4 di esse uscivano i venti della benedizione e della salute e, da quelle 8, uscivano i venti del castigo. Quando venivano inviati, distruggevano tutta la terra, l'acqua che vi è sopra, tutti coloro che vi dimoravano e tutto quel che sta nell'acqua e sullo asciutto. E da quelle porte esce, per primo, il vento chiamato orientale, dalla prima porta che è verso oriente e che inclina a sud. Esce da essa distruzione, siccità, calore e rovina. E dalla seconda porta, centrale, esce aria temperata e, da essa, esce pioggia, frutta, prosperità e rugiada. E dalla terza porta, che è verso settentrione, esce gelo e siccità. E dopo questi, i venti verso sud escono da 3 porte, quelle davanti. Dalla prima di esse, quella che inclina verso oriente, esce il vento del calore. E dalla porta che le è vicina, la centrale, esce, da essa, bel profumo, rugiada, pioggia, prosperità e vita. E dalla terza porta, che è verso occidente, da essa, esce rugiada, pioggia, locuste e distruzione. E dopo questi, i venti verso settentrione. Dalla settima porta, quella verso oriente che inclina a sud, esce, da essa, rugiada, pioggia, locuste e distruzione. E dalla centrale, diritta, esce pioggia, rugiada, vita e prosperità. E dalla terza porta, quella verso occidente che inclina a settentrione, esce grandine, neve, pioggia, rugiada e locuste. E dopo questi, i venti verso occidente. Dalla prima porta, che inclina verso settentrione. Da essa esce rugiada, pioggia, grandine, gelo, neve e freddo. E dalla porta centrale esce rugiada, pioggia, prosperità, benedizione e nell'ultima porta, che è verso sud, esce da essa siccità, distruzione, calore e distruzione. E sono finite le 12 porte delle 4 porte 9 del cielo e, o figlio mio, Matusalemme, io ti ho mostrato tutta la loro legge, il loro castigo e la loro bontà. Enoch 77. Il primo vento lo chiamano orientale perché il primo ed il secondo lo chiamano sud poiché l'Altissimo scende colà. Principalmente colà discende benedetto per l'eternità. E il vento che viene da occidente, il suo nome è imperfetto, perché colà diminuiscono e scendono tutte le luci del cielo. E il quarto vento, di nome settentrione, si divide in tre parti, una delle quali è residenza degli uomini, la seconda è per i mari delle acque e negli abissi, nelle foreste, nei fiumi, nelle tenebre e nella nebbia e la terza è nel giardino di giustizia. Vidi sette montagne alte che erano più alte di tutti i monti che sono sulla terra e da esse usciva neve e passavano ed andavano i giorni, le epoche, gli anni. Vidi sette fiumi sulla terra, più grandi di tutti. Uno di essi veniva da occidente e versava le sue acque nel gran mare. E quei due venivano da settentrione fino al mare e versavano le loro acque nel mare Eritreo, a oriente. E i rimanenti quattro uscivano sul fianco del settentrione, fino al loro mare, il mare Eritreo, e due si versavano nel gran mare, colà, dove lo chiamano deserto. Vidi sette grandi isole, nel mare e nella terra. Due nella terra e cinque nel gran mare. Enoch 78. I nomi del sole sono così. Oriares. Tomas. I nomi della luna sono quattro. Fra essi il primo è Asonia, il secondo. Ebla. Il terzo. Benase. Il quarto. Era. Queste sono le due grandi luci la cui orbita è come la circonferenza del cielo e le cui misure, per ambedue, sono uguali. Nel disco del sole, le sette parti di luce che ha in più della luna si mettono, misuratamente, nella luna fino a quando passa nella luna una settima parte del sole. E tramontano ed entrano nelle porte di occidente e vanno in giro a settentrione e, attraverso le porte di oriente, escono sulla faccia del cielo. E quando la luna sorge, appare nel cielo ed in essa vi è la metà di una settima parte di luce ed essa completa tutta la propria luce in 14 giorni. Ma, in essa, sono poste 15 parti di luce. La sua luce, secondo il segno dell'anno, si completa in 15 giorni, diventa 3 volte 5 e la luna è alla metà di un settimo. Nella propria decrescenza, nel primo giorno diminuisce a 14 parti della sua luce, all'indomani diminuisce a 13 parti, al terzo giorno a 12 parti, al quarto giorno a 11 parti, al quinto giorno a 10 parti, al sesto giorno a 9 parti, al settimo giorno a 8 parti, all'ottavo giorno a 7 parti, al nono giorno a 6 parti, al decimo giorno a 5 parti, all'undicesimo giorno a 4 parti, al dodicesimo giorno a tre parti, al tredicesimo giorno a due parti e al quattordicesimo giorno diminuisce alla metà della settima parte di tutta la sua luce, al quindicesimo giorno sparisce la parte rimanente. In alcuni mesi ciò avviene ogni 29 giorni e, alcune volte, ogni 28. E Uriele mi mostrò un'altra legge. Quando la luce si metteva nella luna e da dove si metteva? Dal sole. Per tutto il tempo che la luna va nella propria luce, essa l'assorbe davanti al sole. Fino a 14 giorni, la sua luce si completa nel cielo e, quando arde tutto, si completa la luce nel cielo. E il primo giorno si chiama novilunio perché, in questo giorno, la luce sorge su di essa. E si completa esattamente nel giorno in cui il sole scende ad occidente e la luna sale ad oriente, di notte, ed illumina per tutta la notte finché il sole sorge avanti a lei ed essa appare di rimpetto al sole. Da dove la luce della luna esce, di là poi diminuisce fino a esaurirsi tutta la luce, a passare i giorni del mese ed essere, il disco, inutile, senza luce. Essa fa tre mesi di 30 giorni del proprio tempo e tre mesi li fa ognuno di 29 giorni in cui essa decresce, nel primo ciclo, nella prima porta, in 177 giorni. E, quanto, all'epoca della sua uscita, per tre mesi appare ogni 30 giorni e, per tre mesi, appare ogni 29 giorni. Di notte appare, come uomo, per 20 giorni ogni volta e di giorno appare come il cielo poiché non ha null'altro che la propria luce. Enoch 79. Ed ora, o figlio mio Matusalemme, io ti ho mostrato tutto ed è finita tutta la legge delle stelle del cielo. E mi mostrò tutte le loro leggi. Quelle per ogni giorno, per ogni periodo, quelle per ogni potenza e per ogni anno e, secondo la sua uscita e la sua legge, quelle per ogni mese e per tutte le settimane. E mi mostrò la decrescenza della luna che viene fatta nella sesta porta, poiché in questa porta finisce la sua luce e da essa è il principio della luna. E mi mostrò la decrescenza che si fa nella prima porta, al suo tempo, fin quando si completano i 177 giorni, cioè, secondo la regola delle settimane, 25 settimane e due giorni. E mi mostrò che, rispetto al sole, e secondo la regola delle stelle, è deficitaria di 5 giorni in un periodo, esattamente, quando si compie questo luogo che tu vedi, tale era l'aspetto di essa e l'immagine di tutte le luci che mi mostrò Uriele, il grande angelo che è la loro guida. Enoch 80. E in quel tempo Uriele mi parlò e mi disse: ecco, Enoch, ti ho mostrato tutto e ti ho reso tutto manifesto perché tu vedessi questo sole, questa luna e quelli che conducono le stelle del cielo e tutti quelli che le fanno girare, le loro azioni, le loro epoche e le loro uscite. E nel tempo dei peccatori gli anni si accorceranno e la loro semenza sarà tardiva sulla loro terra e sul loro campo e tutte le opere, sulla terra, si modificheranno e non appariranno al loro tempo. La pioggia sarà impedita ed il cielo la fermerà. Ed allora i frutti della terra saranno tardivi e non germineranno alla loro stagione e i frutti degli alberi saranno impediti al loro tempo. e la luna modificherà la propria legge e non apparirà al proprio tempo. E in quei giorni, si vedrà in cielo e giungerà, sui margini dei carri, una grande siccità, ad occidente, ed esso splenderà assai più di quanto lo consentano le leggi della luce. E molti capi delle stelle di comando sbaglieranno e muteranno il loro corso e il loro agire e non appariranno ai tempi stabiliti per loro. E tutta la legge delle stelle sarà preclusa ai peccatori e le menti di quelli che stanno sulla terra erreranno a loro riguardo e saranno deviate da tutte le loro strade, sbaglieranno, ed esse, le stelle, ad essi sembreranno dei. E sarà molto, su di essi, il male e verrà su di loro il castigo, per distruggerli tutti. Enoch 81. E mi disse: Enoch, guarda lo scritto delle tavole del cielo e leggi quel che vi è scritto sopra e sappi ogni cosa. Ed io osservai tutte le tavole del cielo, lessi tutto quel che vi era scritto, conobbi ogni cosa, lessi il libro e tutto quel che vi era scritto, tutte le azioni degli uomini e tutti i figli della carne sulla terra, per tutte le generazioni. Ed allora benedissi il Signore, Re di gloria eterna, per come aveva creato tutte le cose del mondo e magnificai il Signore per la sua pazienza e benedissi tutti i figli del mondo. E allora, dissi: Beato colui che muore giusto e buono, cui non è stato ascritto alcuno scritto di cattiveria ed in cui non si trova alcuna colpa. E quei tre santi mi fecero avvicinare e mi misero nella terra, innanzi alla porta della mia casa, e mi dissero: Indica tutto a tuo figlio Matusalemme e mostra a tutti i tuoi figli che tutti quelli che sono di carne non sono innocenti al cospetto del Signore poiché egli li ha creati. Per un anno noi ti lasceremo presso i tuoi figli finché prenderai di nuovo forza per ammaestrare i tuoi figli, per scrivere per essi e far ascoltare a tutti i tuoi figli. E nel secondo anno, ti si toglierà di mezzo a loro. Sia saldo il tuo cuore, poiché i buoni indicheranno la giustizia ai buoni, i giusti si rallegreranno coi giusti e si baceranno fra loro, e il peccatore morirà col peccatore, e il perverso affogherà col perverso. E quelli che operano la giustizia moriranno per le azioni degli uomini e si raduneranno per le azioni degli empi. Ed in quei giorni finirono di parlare con me ed io tornai dalla mia gente benedicendo il Signore del mondo. Enoch Slavo 37. Il Signore chiamò uno dei suoi angeli capi, terribile e minaccioso, e lo pose accanto a me. L'aspetto di quest'angelo era bianco come la neve, le sue mani erano ghiaccio, con l'aspetto di chi ha un gran freddo. Raffreddò il mio volto perché non sopportavo il terrore del Signore, come non è possibile sopportare il fuoco della fornace e il calore del sole e il gelo dell'aria. Il Signore mi disse: Enoch, se il tuo volto non si raffredda qui, nessun uomo può guardare il tuo volto. Enoch Slavo 38. Il Signore disse a quegli uomini che mi avevano fatto salire prima: Enoch scenda sulla terra con voi e attendetelo fino al giorno fissato. Mi posero di notte sul mio letto. Matusalemme aspettava la mia venuta, montando la guardia giorno e notte presso il mio letto e fu terrorizzato quando udì il mio arrivo. Gli dissi che si radunasse tutta la gente della mia casa. Io dissi loro: e tutto ciò che è secondo la volontà del Signore. Io infatti sono stato mandato dalla bocca del Signore da voi, per dirvi tutto ciò che è e tutto ciò che sarà fino al giorno del giudizio. Ed, ora miei figli, non dalla mia bocca vi parlo oggi, ma dalla bocca del Signore che mi ha mandato da voi. Voi infatti udite le mie parole dalla mia bocca di uomo creato uguale a voi, ma io le ho udite dalla bocca di fuoco del Signore, poiché la bocca del Signore è una fornace di fuoco e le sue parole una fiamma che esce. Enoch Slavo 39. Voi, miei figli, vedete il mio volto di uomo creato simile a voi. Io ho visto il volto del Signore come ferro arroventato dal fuoco che getta scintille. Voi, infatti, guardate gli occhi di un uomo creato uguale a voi. Io ho guardato gli occhi del Signore come raggi del sole che brilla, che atterriscono gli occhi dell'uomo. Voi, figli, vedete la mia destra che vi fa segno, di uomo creato uguale a voi. Io ho visto che mi faceva segno la destra del Signore, che riempie il cielo. Voi vedete l'estensione del mio corpo simile al vostro? Io ho visto l'estensione del Signore incommensurabile e incomparabile, che non ha fine. Voi udite le parole della mia bocca? Io ho udito le parole del Signore come un grande tuono in un'incessante agitazione di nubi. Ora, miei figli, ascoltate il discorso su un re della terra. È terribile e pericoloso stare davanti al volto di un re della terra, spaventoso e molto pericoloso, perché la volontà di un re è morte e la volontà di un re è vita. Stare davanti al volto del re dei re, chi ne sosterrà lo spavento infinito o quello della grande bruciatura? Ma il Signore chiamò dai suoi angeli capi uno terribile e lo pose accanto a me. L'aspetto di quest'angelo era neve e le sue mani ghiaccio, ed egli raffreddò il mio volto, poiché non sopportavo il terrore della bruciatura del fuoco, ed è così che il Signore mi parlò tutte le sue parole. Enoch Slavo 40. Ora dunque, o miei figli, io conosco tutte le cose, alcune dalla bocca del Signore, le altre le hanno viste i miei occhi, dal principio alla fine e dalla fine al ritorno. Io conosco tutto e ho scritto nei libri le estremità dei cieli e ciò che li riempie. Io ho misurato i loro movimenti e io conosco le loro milizie. Io ho compiuto il conto delle stelle, grande moltitudine senza numero. Quale uomo concepirà i circuiti dei loro cambiamenti o i loro movimenti o i loro ritorni o le loro guide o coloro che sono guidati? Neppure gli angeli conoscono il loro numero, io ho scritto i loro nomi. Ho misurato il cerchio del sole e ho contato i suoi raggi e le sue entrate e le sue uscite e tutti i suoi movimenti, e ho scritto i loro nomi. Ho misurato il cerchio della luna e i suoi movimenti per ogni giorno e la decrescenza della sua luce per ogni giorno e ora. E ho scritto i loro nomi. Le abitazioni delle nubi e le loro bocche e le loro ali e le loro piogge e le loro gocce io le ho investigate e ho scritto il rombo del tuono e la meraviglia del lampo. Mi hanno mostrato i loro guardiani, le loro salite attraverso le quali salgono con misura. Con una briglia si alzano e con una briglia si abbassano, affinché con greve violenza non lacerino le nubi e facciano perire ciò che c'è sulla terra. Io ho scritto i depositi delle nevi e i magazzini dei ghiacci e ogni spirito del freddo. Io ho osservato come a certe epoche i loro custodi riempiano le nubi e i depositi non si vuotino. Io ho scritto le camere dei venti, io ho guardato e visto come i loro guardiani portano bilance e misure. Prima li mettono sulla bilancia, poi nella misura e con misura li lasciano andare su tutta la terra, affinché non scuotano la terra con un soffio violento. Di là fui fatto scendere e giunsi nel luogo del giudizio e vidi l'inferno aperto e vidi là un campo come una prigione, un giudizio senza misura. Scesi e scrissi tutti i giudizi dei giudicati e conobbi tutti i loro interrogatori. Enoch 82. Ed ora, figlio mio Matusalemme, ti dico e scrivo per te tutte queste cose. Tutto ti ho manifestato e ti ho dato gli scritti riguardanti tutte queste cose. Custodisci, o figlio mio Matusalemme, i libri della mano di tuo padre e che tu li possa dare alle generazioni future. Ho dato la sapienza a te, ai tuoi figli ed a quelli che saranno tuoi discendenti affinché diano ai loro figli ed alle generazioni, in eterno, nella loro mente, questa sapienza. E coloro che la conosceranno e la ascolteranno con le proprie orecchie, non dormiranno per apprenderla ed essa sarà, a quelli che la mangeranno, più gustosa dei buoni cibi. Beati tutti i giusti, beati tutti quelli che procedono sulla via della giustizia e non hanno alcun peccato, come i peccatori, nel numero di tutti i loro giorni. Per quanto riguarda il sole che va nel cielo, che entra ed esce nelle porte per 30 giorni insieme con i capi dei 1000, questa è la legge delle stelle, con i 4 giorni che si aggiungono e che i loro condottieri, che entrano con loro, dividono fra le 4 parti dell'anno. A loro proposito, gli uomini errano e non li calcolano nel computo di tutto il tempo, poiché gli uomini li sbagliano e non li conoscono accuratamente. Infatti essi stanno nel computo dell'anno e sono vere aggiunte al tempo. Uno nella prima porta, uno nella terza, uno nella quarta e uno nella sesta e l'anno, conseguentemente, si completa in 364 giorni. Ed è vera la cosa ed è esatto il calcolo delle aggiunte poiché, per quanto riguardava le luci, i mesi, le feste, le stagioni delle piogge e di giorni, Uriele mi mostrò ed ispirò quello che, per me, gli aveva ordinato il Signore di tutto il creato, nella potenza del cielo. Ed egli ha potere, notte e giorno, nel cielo per mostrare la luce agli uomini. Il sole, la luna, le stelle e tutte le potenze del cielo circolanti nella loro orbita. E questa è la legge delle stelle che tramontano, nel proprio posto, nella propria epoca, ognuna nelle proprie feste e nei propri mesi. E questi sono i nomi di quelli che guidano coloro che essi sorvegliano e che, alle loro epoche, ritornano, nelle loro regole, nei loro tempi, nei loro mesi, nei loro poteri e nelle loro sedi. 4 loro guide entrano per prime. Sono quelli che separano le 4 parti dell'anno e, dietro di loro, entrano le 12 guide delle regole che distinguono i mesi ed hanno i 364 giorni, insieme coi capi dei 1000 che separano i giorni ed i 4 che vi si aggiungono, i quali dividono, come guide, le 4 parti degli anni. E questi capi dei 1000 stanno tra guidatore e guidati, uno si aggiunge dietro la posizione le loro guide dividono. E questi sono i nomi delle guide che dividono le quattro parti dell'anno che sono state stabilite? Melchiele, El Memelech, Meleial e Narel. I nomi di quelli che essi guidano sono Adenarel, Iesusael e Ielumiel. Questi tre, che vanno al seguito delle guide delle regole, e uno che va dietro alle tre guide delle regole alle quali vanno dietro a quelle guide delle posizioni, sono quelli che dividono le quattro parti dell'anno. All'inizio dell'anno sorge, per primo, Edomina Melchiele, il cui nome è Tamani Vasaia e sono 91 tutti i giorni che esso domina e che sono in suo potere. E questi sono i segni dei giorni che appariranno sulla terra nei giorni del suo potere. Sudore, calore, dolore. Tutti gli alberi fruttificheranno e le foglie usciranno su tutti gli alberi, e vi sarà la mietitura di frumento. Le rose e tutti i fiori fioriranno nei campi e gli alberi della stagione delle piogge si appassiranno. E questi sono i nomi delle guide che sono sotto di loro. Berchiele, Zalbesaiele ed un altro, aggiunto, capo di mille, chiamato Eloiasef. Ed è finito il tempo del potere di costui. L'altra guida, che è dopo di loro, è El Memelech che la chiamano Saia Berua. E tutti i giorni della sua luce sono 91. E questi sono i segni dei giorni sulla terra. Calore, siccità, gli alberi producono i loro frutti maturi ed hanno maturi i loro frutti. Vi è siccità e le pecore si accoppiano e diventano gravide e gli uomini radunano tutti i frutti della terra e quel che è nei campi. E la pigiatura dell'uva è nel tempo del suo potere. E questi sono i nomi, le regole e le loro guide che stanno sotto quei capi di mille. Gedaele, che Ele ed il nome di colui che si aggiunge ad essi, il capo dei mille, è Asfaele. Ed è finito il tempo del suo potere.